Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vaccinarsi è responsabilità collettiva, dirlo il presidente Fedriga presentando la campagna vaccinale 2023 contro l'influenza e il Covid. Lo stabilimento della DL Radiators a Moimacco annuncia 50 esuberi e il taglio di 30 contratti a tempo determinato. La prima reazione dei lavoratori è uno sciopero di 8 ore previsto per giovedì. Per la rissa avvenuta tra i SIC a Pordenone alcune settimane fa, il questore ha emesso 6 misure di prevenzione, di cui 3 fogli di via per altrettanti cittadini indiani. Arredi e notebook per 45.000 euro nelle scuole di Pordenone, ad assicurare la dotazione il comune. Stiamo vivendo l'ottobre più caldo del decennio, ma non chiamatela ottobrata. L'estate inoltrata si sta mangiando le riserve di ghiaccio e acqua delle Alpi. Il festival Jazz e Wind of Peace riempirà di ottima musica le cantine del Collio Burda dal 26 al 29 ottobre. 18 i concerti in programma con i grandi nomi del jazz internazionale, per la rassegna di Controtempo che riprende anche gli eventi Round Midnight. Buongiorno da Daniele Letti, Gennada Cioc per questa seconda edizione del nostro giornale radio. L'autunno alle porte, nonostante le temperature ancora estive, con esso anche le infezioni virali. Il presidente della regione Fedriga e l'assessore Riccardi hanno presentato pochi minuti fa la campagna vaccinale contro l'influenza e il Covid. Sentiamo il servizio. Al via la campagna vaccinale 2023-2024 da lunedì 16 ottobre nei dipartimenti di prevenzione, nei distretti sanitari, negli ambulatori dei medici di base, dei pediatri e nelle farmacie convenzionate sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid volendo in consomministrazione. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a tutti, quella anti-Covid raccomandata agli over 60, ai fragili. La vaccinazione anti-Covid è gratuita per tutti, quella antinfluenzale per i bambini sotto i 6 anni, per gli adulti e i bambini fragili, per gli over 60, per le donne in gravidanza, per il personale sanitario, le forze dell'ordine e chi ha contatto con le persone fragili, dunque è gratis per i caregiver. La campagna è stata presentata pochi minuti fa nel Palazzo della Regione. Noi siamo con Cristina Zappetti, medico del servizio di prevenzione. Dopo 2 anni, 3 anni di pandemia abbiamo capito che la vaccinazione è importante, non bisogna dubitarne. È uno strumento fondamentale per prevenire l'infezione, la trasmissione e le complicanze gravi, soprattutto nei soggetti che possono essere, per patologia o per età, a rischio di complicanze di sviluppo, complicanze gravi per entrambe le infezioni, Covid e antinfluenzale. Quindi è uno strumento fondamentale. Importante che si vaccinino i sanitari, forse questo lo abbiamo capito di più dopo la pandemia. Per il personale sanitario le vaccinazioni sono offerte gratuitamente, è fondamentale la loro adesione per proteggere i soggetti a rischio che loro accolgono e curano e per mantenere i livelli di servizio adeguati ai picchi di incidenza. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'etica è una delle questioni di fondo da applicare all'intelligenza artificiale. Ne ha parlato in una conferenza Maurizio Balistreri, docente di filosofia morale all'Università degli Studi della Tuscia, che è intervenuto al Welcome Day del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste. Una lezione sulle implicazioni etiche dell'intelligenza artificiale per inaugurare ufficialmente l'inizio dell'anno accademico. Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste dà così il benvenuto alle matricole. Volti un po' sperduti ma molto interessati tra i nuovi studenti che hanno scelto il proprio percorso di studi mossi dalla passione per lettere, storia, filosofia. Le immatricolazioni sono ancora in corso, ma in tutte le facoltà, ci anticipa la direttrice del Dipartimento Elisabetta Vezzosi, si sta registrando interessi in aumento, in particolare scienze della formazione primaria, laurea che abilita l'insegnamento. Tanti gli studenti che quest'anno arrivano dal vicino Veneto e che hanno scelto di venire a Trieste o di studiare nella sede del Dipartimento a Porto Gruaro, dove si è tenuto oggi in contemporanea il Welcome Day. Come mostrano anche i dati dell'ultimo Job Day con le aziende tenuto dall'università e quelli della piattaforma Alma Laurea, per i laureati di facoltà umanistiche ci sono più possibilità di lavoro di quelle che il senso comune ritiene. Oltre all'insegnamento e alla ricerca sono sempre più richiesti dalle imprese. La caratteristica più apprezzata del loro percorso di studi, spiega la direttrice del Dipartimento, è quella dell'interdisciplinarietà e dunque del sapersi muovere con competenze trasversali. Trieste, di Via Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La DL Radiators di Moimacco ha annunciato 50 esuberi e il taglio di 29 contratti a tempo determinato che quindi non saranno rinnovati. Una riduzione dell'organico pesante alla quale i lavoratori rispondono con lo sciopero di 8 ore previsto per giovedì, mentre le RSU hanno fatto formale richiesta alla regione di mediare. 50 esuberi e 29 mancati rinnovi di contratti di somministrazione è quanto la direzione aziendale della DL Radiators di Moimacco ha comunicato ai dirigenti sindacali di Fiom CGL, Fim CISL, Wilm Will nell'incontro del 3 ottobre in azienda. 79 unità a rischio su un totale di 290 dipendenti dello stabilimento friulano che hanno subito messo in allarme i sindacati che, convocati i lavoratori e i rappresentanti sindacali interni, hanno indetto 8 ore di sciopero per giovedì, è scritto agli assessori Bini e Rosolen e all'Assindustria di Treviso, in quanto l'azienda è lì associata, per aprire un tavolo di confronto. Una vicenda lunga e laboriosa quella della DL Radiators SRL, azienda leader nella produzione di radiatori tubolari, termoarredo e piastre di proprietà della famiglia De Longhi. Nel giugno del 2022 è stata acquisita al 100% dal gruppo inglese Stelrad, leader nella produzione e distribuzione di radiatori nel vecchio continente e in particolare sul mercato britannico. Fabio Bauser, Fiom CGL Udine. Di fronte a un taglio di una portata così importante, chiediamo un progetto industriale chiaro che ci dia una garanzia di qual è il futuro di questo sito, del sito di Moimacco, un sito storico, no, del Cividalese, e vogliamo una garanzia chiara. Loro vi hanno proposto degli ammortizzatori sociali? Insufficienti, ci hanno proposto solo 6 mesi, che per noi, per tutta la pattuglia sindacale, è totalmente insufficiente per accompagnare una situazione così drammatica. Nel corso delle 8 ore di sciopero, indetto in tutti i reparti, vi sarà un presidio delle organizzazioni sindacali davanti l'azienda. Moimacco, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E si è svolta questa mattina davanti al Palazzo di Giustizia di Gorizia un'assemblea del personale degli uffici giudiziari organizzata dai sindacati CGL, CISL e CONFSAL per denunciare il problema della cronica mancanza di personale che va avanti da mesi e per cui non si intravede soluzione. L'assemblea sarà ripetuta anche domani e poi ogni martedì e mercoledì fino alla fine del mese di ottobre. 12:37, siamo alla cronaca. 2 arresti per spaccio di droga a Trieste del rione di Valmaura. La polizia locale ha allestito un servizio di osservazione e controllo in borghese nel rione in seguito a numerose segnalazioni su un anomalo via vai di persona all'interno di uno stabile popolare. Gli agenti hanno fermato un uomo che è uscito dallo stabile in questione e perquisendolo hanno trovato 1 grammo di eroina. Dopo ulteriori accertamenti e in accordo con il pubblico ministero, hanno proseguito l'indagine e su mandato dell'autorità giudiziaria sono entrati nell'abitazione sospetta dove sono domiciliati un uomo di 31 anni e la sua fidanzata di 25. In un armadio della camera da letto gli agenti hanno trovato 50 grammi di eroina, parte della quale già frazionata in 15 dosi. Nel frigorifero erano custodite invece 7 confezioni di metadone, alcune delle quali parzialmente utilizzate e tutte con etichetta brasa. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e 2 sono stati arrestati e ristretti ai domiciliari per la presunta detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il questore di Pordenone ha emesso 3 provvedimenti di foglio di via obbligatorio nei confronti di 3 cittadini indiani, un 47enne, un 36enne e un 33enne, che erano stati coinvolti nella maxi rissa tra opposte fazioni della comunità Sikh avvenuta la sera del 18 settembre a Villanova di Prata di Pordenone. Il provvedimento ha una durata di 2 anni, periodo durante il quale i 3 non potranno entrare nel territorio del comune di Prata. Nel corso delle indagini erano già state emesse altre 6 misure di prevenzione consistenti nell'avviso orale nei confronti di altrettanti indiani. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Trieste assieme alle dogane integratori alimentari contenenti Viagra. Nelle 11.000 bustine sequestrate dalle Fiamme Gialle è stata rilevata la presenza di sildenafil, il principio attivo del Viagra appunto, che è una sostanza farmacologica e quindi come tale vietata negli integratori alimentari. Gli integratori sono prodotti in Turchia e sono acquistabili su diversi siti online. sapere il Ministero della Salute, che raccomanda di non consumare questi prodotti. Il Comune di Pordenone, su disposizione dell'assessore all'istruzione Alberto Parigi, ha distribuito agli istituti comprensivi della città una serie di arredi, materiale informatico e attrezzature varie per un totale di quasi 45.000 euro. Nel dettaglio sono stati distribuiti banchi, appendiabiti e altri arredi per oltre 10.000 euro alla scuola Narvesa, dove, terminati gli importanti lavori per la messa in sicurezza antisismica, gli alunni sono regolarmente rientrati. Altre attrezzature dedicate alle pulizie, dai carrelli ai supporti igienici, sono andate al comprensivo Pordenone Sud. Il sostegno più corposo riguarda l'informatica, tra notebook, monitor, videoproiettori e tablet. Il totale delle attrezzature acquistate e cedute alle scuole è di oltre 27.000 euro. Ne hanno beneficiato in varie misure le scuole dei quattro comprensivi. Il CDA di Nord-Est Multimedia, detto anche NEM, riunitosi in preparazione dell'acquisizione da GEDI dei 6 quotidiani di Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ha nominato Giuseppe Cerbone amministratore delegato e Paolo Possamai direttore editoriale. Alla società di nuova costituzione, presieduta da Enrico Marchi, aderiscono una quindicina delle principali famiglie imprenditoriali del Triveneto. Cerbone è stato per 2 volte amministratore dell'agenzia ANSA e altrettante del gruppo Il Sole 24 Ore. Possamai, già inviato speciale per i giornali locali del gruppo Espresso, è stato tra l'altro direttore del Piccolo, del Mattino di Padova, della Tribuna di Treviso, della Nuova Venezia, del Corriere delle Alpi e di Nord-Est Economia, le stesse testate che insieme al Messaggero Veneto di Udine passeranno da GEDI a NEM. Il Burlo Garofalo di Trieste è tra i primi centri pediatrici in Italia ad acquisire un FibroScan, l'avanzato apparecchio ultrasuoni che consente di effettuare un importante esame diagnostico per la valutazione della fibrosi epatica, cioè la cicatrizzazione del fegato, evitando il ricorso alle invasive biopsie epatiche, soprattutto per i pazienti epatobiliari cronici, per i pazienti oncologici e per quelli trapiantati di midollo. La sofisticata apparecchiatura è stata acquistata grazie alla donazione della Beneficenza Stiftung del Liechtenstein. Il direttore generale dell'Istituto Materno Infantile Burlo Garofalo, Stefano Dorbolò, ha espresso grande riconoscenza a Beneficenza Stiftung per questa importante acquisizione, che andrà a beneficio del paziente, che non dovrà subire conseguenze postoperatorie, ma anche dell'intera collettività in termini di uso efficiente delle risorse disponibili. L'integrazione passa anche attraverso la bicicletta. A Pordenone sono arrivate infatti 3 biciclette speciali che permettono anche alle persone con disabilità in carrozzina di andare in bici. Il progetto è dell'Associazione Cittadina San Valentino. Sentiamo. A Pordenone sono arrivate 3 biciclette speciali che permettono anche alle persone con disabilità e in carrozzina di andare in bici. Il progetto è dell'Associazione Cittadina San Valentino, sostenuto dalla Regione e con la collaborazione delle associazioni del territorio. Bruno Bertini, segretario dell'Associazione San Valentino. È un progetto pilota che si prefigge di accompagnare ragazzi speciali con biciclette speciali. Noi vogliamo accompagnarli a tutte le nostre attività. Non siamo soli, ma in sinergia con tante associazioni. Noi come Associazione San Valentino accompagniamo per i gruppi di cammino, mentre c'è la FIAB, che è il progetto di portare per la città gli ospiti della Casa Serena. Inoltre c'è l'AMIN, che si rende disponibile a, diciamo, accompagnare una persona che arriva in stazione o in bus, diciamo, accompagnarli, diciamo, per vedere la città. L'assessore alle politiche sociali Guglielmina Cucci. La crescita è sempre a 2 dimensioni, crescono e si evolvono queste persone, ma cresce anche la città in termini di accoglienza e di apertura alla cultura della diversità. Lei ha già utilizzato questa bicicletta? Come si trova? Com'è l'esperienza? Molto piacevole andare in giro con questa bicicletta, perché per me è la prima volta, è un'esperienza molto bella. Per voi associazioni quanto è importante un'iniziativa del genere? Importantissima, perché ci dà la possibilità di essere insieme agli altri con le camminate, anche con la FIAB, con le bici. E questi ragazzi hanno bisogno di autonomia anche su 2 ruote. E abbiamo visto che funziona, e funziona veramente bene. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Quando sono quasi le 12.45 siamo al tempo, cielo nuvoloso su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 22 gradi, mare calmo con temperatura di 23 gradi. A Gorizia 21 gradi e mezzo, a Udine e Pordenone 20 gradi e mezzo. Sul Piancavallo 19 gradi, a Sappada 17 e mezzo, a Forni di Sopra 16, a Tarvisio 15 gradi e mezzo, a Tolmezzo 14. Sul Monte Zoncolan 16 gradi, sul Monte Lussari 14 gradi e 5 decimi. A Lignano, sulla costa, 21 gradi, a Grado 20 gradi e mezzo, con temperatura del mare nelle due località di 22 gradi. Le previsioni dell'ARPA per questo pomeriggio: cielo in genere poco nuvoloso per velature in quota, soffieranno venti di brezza molto deboli, temperature diurne molto al di sopra della norma del periodo. Domani cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, soffieranno venti di brezza deboli, temperature diurne ancora al di sopra della norma e nella notte, più probabilmente dalla sera, possibili foschie o nebbie sulla costa lagunare e sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. In occasione della rappresentazione Vaillants, che è andata in scena ieri sera al Palamostre di Udine per ricordare il disastro di 60 anni fa, i comitati che propugnano lotte ambientali in tutta la regione hanno fatto sentire la propria voce davanti al teatro, perché, sostengono, a 60 anni dalla strage la devastazione non si è mai fermata e lo sviluppo si lascia alle spalle degrado e territori senza futuro. I manifestanti sono convinti che solo la reazione popolare decisa e unita può fermare ulteriori devastazioni, come hanno dimostrato 7 mesi di mobilitazione contro il progetto dell'acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Hanno ricordato poi altri fronti ambientali aperti: l'inceneritore della Kronospan a San Vito al Tagliamento, autorizzato dalla regione, il progetto dell'Ovovia a Trieste, l'allarme della popolazione della Carnia per la cogenerazione della SIOT e ancora l'inceneritore che la Bioman vorrebbe installare a Maniago. Il riscaldamento climatico è sempre più evidente nell'allungamento della bella stagione. Stiamo infatti vivendo l'autunno più caldo degli ultimi 10 anni, ma gli impatti di questa, che molti chiamano erroneamente ottobrata, sono preoccupanti, come spiega il presidente della Società Meteorologica Alpino Adriatica, Renato Colucci. Sentiamo. Spiagge e mare in autunno si può, è da 10 anni che non si registravano quasi 27 gradi in ottobre e si può anche fare il bagno perché il mare è ancora molto caldo e in quota mai dal 1851 ad oggi si sono registrate temperature tanto elevate e ghiacciai delle Alpi Giulie, famosi per essere tra i più resilienti, soffrono. Una situazione straordinaria che in passato era limitata a pochi giorni. Renato Colucci, ricercatore delle scienze polari del CNR e presidente della Società Meteorologica Alpino Adriatica. Negli ultimi 50 giorni le temperature sono sempre state molto al di sopra di quelle che sono le medie normali e solo per circa 36 ore sono state sotto la media. Ecco, questo è veramente qualcosa di assolutamente straordinario. Siamo circa 6 gradi superiori alla media stagionale? Con picchi anche superiori. E diciamo la particolarità di questo caldo è che si sente di più, cioè gli effetti sono maggiori in quota. Ad esempio sulle Alpi Giulie è stato il settembre più caldo mai osservato, con valori tipici del mese di luglio. Quindi qualcosa veramente di eccezionale. La criosfera alpina continua a ridursi drasticamente. Negli ultimi 2 anni è scomparso il 10% del volume dei ghiacciai. Nelle Alpi Giulie invece il ghiacciaio è stato protetto dalle nevicate straordinarie che hanno compensato le estati lunghe, e questo anche grazie al mare Adriatico più caldo. Una superficie marina più calda tende a dare più umidità alla massa d'aria perché l'evaporazione è favorita. E quindi questo è un altro effetto. Quando ci sono gli eventi estremi, questi possono essere più estremi anche perché la superficie marina è molto più calda. È un po' quello che è successo con Vaia alcuni anni fa, quando il Mediterraneo ad ottobre, a fine ottobre, era in condizioni ancora estive con temperature altissime e ha dato carburante agli eventi che poi si sono scatenati. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. E considerato il perdurare delle alte temperature, con condizioni che favoriscono il prolificare di zanzare e altri insetti, il comune di Monfalcone ha programmato interventi straordinari di disinfestazione con trattamenti adulticidi sulle aree pubbliche e aperte al pubblico. In particolare si prevedono 2 cicli di trattamento su tutto il territorio, il primo dei quali verrà eseguito nella notte tra martedì, stasera, e mercoledì 11 ottobre nella zona 1, tra il rione Aris e il centro, fino a Viale San Marco. Nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona 2 dal porticciolo Nazario Sauro verso Panzano e Marina Iulia e infine nella notte tra giovedì e venerdì nella zona 3 dal canale Valentinis verso le vie limitrofe alla stazione e della zona dell'Isert. Due esemplari di Alocco degli Uralli, uno dei più grandi rapaci notturni europei, sono stati consegnati da ricercatori dell'Università di Vienna alla riserva naturale del lago di Cornino per portare avanti il progetto già avviato nei boschi bavaresi e austriaci. La metodologia prevede di tenere la coppia in grado di nidificare in una struttura specializzata e liberare poi i giovani nati in modo che siano in grado di adattarsi alla vita selvatica. Dopo un certo periodo, i giovani liberati iniziano a formare coppie territoriali nidificanti destinate ad aumentare progressivamente ad occupare territori sempre più ampi. Ritorna dal 26 al 29 ottobre il festival transfrontaliero Jazz and Wine of Peace, manifestazione che si svolge fra Collio Friulano e Sloveno ed esalta il connubio tra la musica jazz e le eccellenze enogastronomiche del territorio. 18 i concerti in programma in 4 teatri e 16 tra aziende vinicole e dimore storiche. A organizzare la rassegna al circolo Controtempo di Cormons. Abbiamo intervistato la presidente Paola Martini. Il nostro è un festival transfrontaliero per eccellenza, celebra la pace all'insegna comunque della buona musica jazz e cercando di valorizzare al massimo quello che è il patrimonio enogastronomico del nostro territorio, non dimenticando che stiamo tutti lavorando per quel grande evento che sarà poi Go 2025. 18 saranno i concerti distribuiti in teatri, cantine, aziende vinicole, dimore storiche e locali. Si rinnoverà anche quest'anno la formula dei Jazz Test, che è un percorso affidato a giovani musicisti, dove si esibiranno abbinando poi una degustazione di vini. È un format piccolo, dura 40 minuti ma molto intenso, e nell'edizione speciale di quest'anno si confronteranno musicisti sloveni e musicisti italiani. Ci può fare qualche nome dei protagonisti del calendario? Avremo Italia e Cuba che si incontreranno con il concerto di Omar Sosa e Paolo Fresu, il progetto si chiama Food, ma non solo, avremo Patrizio Fariselli che ci presenterà il suo omaggio, il suo lavoro per i 50 anni del mitico album, Francesco Berzatti con il tributo a Led Zeppelin, ci sarà il pianista americano Chris Jarrett, avremo Andy Shepard con Rita Marco Tulli e Enrico Rava con il suo nuovo progetto. Il concerto che faremo di anteprima, anche questo un concerto molto importante, lo faremo in collaborazione con il Kulturnidom e è un progetto con zero orchestra, ma in questo caso proprio per consolidare l'amicizia e il dialogo tra Italia e Slovenia, il gruppo che si esibirà quest'anno è un gruppo composto anche da musicisti sloveni. Poste Italiane comunica che oggi viene emesso dal Ministero delle Imprese del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Il Senso Civico, dedicato a Norma Cossetto nell'ottantesimo anniversario della sua morte. La tiratura del francobollo dedicato a Norma Cossetto è di 250.020 esemplari. La vignetta raffigura la giovane studentessa istriana vittima delle foibe nel 1943, a cui è stata conferita nel 2005 la medaglia d'oro al merito civile dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico. E con questa notizia chiudiamo questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Daniele Lettig e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Paolo Cassano. E vi auguriamo una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.